Ladies and gentlemen, sono le 8. Seconda ora. Pane, burro e rock and roll. Puntata 171. La tua colazione rock. Del 29 gennaio 08. La mattina ascolta Rock FM. Buongiorno anche a voi della seconda ora, cari amici e care amiche. Pane, burro e rock and roll, che quest'oggi aumenta il ricco carnet delle proprie rubriche con le segnalazioni del traffico, un classico della radiofonia al quale risponde l'amico di Luca. Ormai, amici, vi manca solo di fare da agenzia per cuori solitari e avete coperto tutti i servizi delle altre radio. Fai poco lo spiritoso, perché tra il lusco e il brusco ci scatta pure l'agenzia matrimoniale. Altre proposte arrivano, bisognerebbe pensare una rubrica nella quale gli ascoltatori consigliano e giudicano ristoranti dove mangiare, perché quando si gira è bello sapere dove andare a mangiare, ottima idea. Saluti a chi ha difficoltà a svegliarsi stamattina, guarda, non me ne parlate ragazzi, ho avuto una nottata veramente, veramente difficile. Un saluto anche a Paola e Marta, l'amico patentato 1007, ai, eccala, protesto, leggo, protesto vibratamente contro la consegna delle patenti da vero rocker senza testa attitudinale. Propongo ai possessori di regolari patenti di presentarsi a celle ligure per prendere le patenti abusive in modo da lasciarne il meno possibile in circolazione. Basta con questa storia, ragazzi. A celle un raduno surrealista. Se venite vestiti da cowboy o da indiani, ve la guadagnate sul campo, capito? Vabbè. Il brano di Mox, ormai un'abitudine. Quest'oggi ci trasferiamo nel 1973. Loro sono la Sensational Alex Harvey Band e il brano è Next. Buon ascolto. Naked, a sin, an army towel covering my belly. Some of us weep, some of us howl, knees turn to jelly. But next, next, I was just a child, 100 like me. I followed a naked body, a naked body followed me. Next, next. I was just a child when my innocence was lost in a mobile army hoot house. A gift of the army, free of course. Next, next, next. Me, I really would have liked a little bit of tenderness. Maybe a word, maybe a smile, maybe some happiness. But next. Oh, it was not so tragic and heaven did not fall. But how much at the time I hated being there at all. Next, next. I still recall the brothel trucks, the flying flags. The queer lieutenant slapped that acid thinking we were fags. Next, next. Of gonorrhea, it is his ugly voice that I forever fear. Next, next, a voice that stinks of whiskey, corpses, and of mud. The voice of nations, the thick voice of blood. Next, next, since then, each woman I have taken into bed, they seem to lie in my arms and they whisper in my head. Sensational Alex Harvey Band. Il brano era Next, la grande musica di Easy Rider che potete ascoltare tutti i giorni qui su Rock FM dalle 12 alle 2. Grazie Mox. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Pane, burro e rock and roll ha deciso. Uno dei sette vizi capitali è decisamente più rock degli altri. È l'invidia, un'esternazione talmente compromettente da risultare fondamentale. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Confessaci la tua invidia. Garantiamo l'anonimato. Ciao. Lavoro nella redazione di un programma radiofonico di successo. Mi avevano promesso un sacco di soldi. In realtà non ho visto niente. Probabilmente meritavo di più. Anch'io invidio. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Iscriviti anche tu. Invia un SMS al 335-100-7777. Col testo L'invidia è rock. Lamentarsi è deprimente. Invidiare è rock. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Oh ragazzi, ma è sicuro l'anonimato qua, vero? Isacco, stai in una botte di ferro. Arizzi, non ti fidi di noi? Tranquillo. Take a chance with me, as I am so bad. il 29 di gennaio e da pane, burro e rock and roll potremmo, grazie alla segnalazione della redazione e grazie ai nostri almanacchi, finalmente passare una notizia clamorosa. Esattamente, di qualche annetto fa, perché è dell'87. Sì, però una di quelle risposte ai grandi enigmi della vita, tipo un evergreen, sempre va, tipo mi dica. Non so, ma Dio è donna o uomo? Esatto. Questo è un grande enigma, oppure. Ma dunque, siamo nati per la felicità o per la sofferenza? È nato prima l'uovo o la gallina? Esatto, la Gioconda di Leonardo. Perché rideva così? Esatto, rideva poi veramente. Ci è arrivato all'enigma che risolveremo, perché era il 29 di gennaio del 1987 quando, senta qua, il settimanale medico americano Physicians Weekly mica male sostiene che il sorriso della Gioconda di Leonardo da Vinci è causato da una paralisi facciale conseguente all'infiammazione di un nervo posto dietro all'orecchio. Ma crollano secoli di interpretazione su questo sorriso ambiguo, su questa posa del viso. Una paralisi facciale. Si immagini come parlava la Gioconda? Parlava così. Leonardo, è finito, devo andare fare le pulizie di casa. Non me ne vorranno gli amici del Physician Weekly, ma io voto contro questa lettura. Sì, anche se Physicians Weekly è già di per sé il titolo ti mette sull'attenti, è molto attendibile. Comunque, comunque non lo so. Viva la Gioconda. Comunque sempre viva Mona Lisa. A volte è meglio non saperle le risposte. Esatto, la morale è questa. Sì. Talvolta è meglio non sapere. Hai visto che so quando riprendono a cantare? Vabbè. Highway Star. Is a killer machine. La diretta di Pane, Burro, Rock and Roll. Ma come poter gestire i casini che si combinano in questa trasmissione radiofonica? Come se non lo sapessi, al minimo, al minimo accenno di una rubrica per cuori solitari, è sempre così, si scatena l'inferno. Via con i nostri contatti, gente che si propone, proprio si svende così. Ariel, dammi i contatti di tutti gli SMS che arrivano. Ma soprattutto resto colpito da un SMS che recita così: faccio io da agenzia cuori solitari. A chi è interessato date la mia mail per le schede del candidato, senza foto, e poi le valuto. Il nickname di questa persona è Sculaccia Anguille. Adesso vedete voi se posso lasciare i contatti delle mie radioascoltatrici mie, nostre, a uno che si fa chiamare Sculaccia Anguille. Ma devo occuparmi di un altro problema. Questa storia del raduno surrealista ne sta creando veramente di giganteschi, di problemi, e soprattutto ci mette in dura crisi con un inviato speciale di Pane, Burro e Rock and Roll, di quelli storici, il nostro rude camionista Yuri. Buona giornata, Yuri. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, svelo l'arcano. Qualche secondo, qualche minuto dopo il primissimo messaggio di Mario, che ha fatto scatenare l'inferno, abbiamo detto ok, andiamo a Celle Ligure, anche Yuri ha scritto, ha detto ma anch'io c'avevo il mio porco carro a Ravenna. Giusto? Giusto. E quindi ti sei un po' offeso, di la verità. Ma un pochettino, ma mica tanto. Sarà perché ho molti amici in Liguria, quindi diciamo che la mando giù volentieri, ecco. No, però io per fare pace ti volevo proporre un gemellaggio. Cioè, Celle Ravenna. Va bene. Ti può fare. Possiamo anche farlo. No, ti sento troppo giù, Yuri, però ripigliati un attimo. No, vabbè, sono giù. Ma mi sarebbe moltissimo venire su il tra, questo no, è il padre. Vabbè, però c'è il altri impegni che mi precludono la mia presenza, ecco. Senti, quindi diamo questa nuova lettura di Yuri, ripeto, al nostro duro rude camionista, che solitamente ricorderete di lui per le donne nude a Rock FM, no? Ma in realtà è un padre di famiglia, normalissimo. Esatto. Normalissimo, che ha delle belle bambine, sono un paio ne ha, Marisa e che mi fa i carri per le bambine. Bravo Yuri! Com'è il tuo? Il mio, il tema è volare. Oh oh. E praticamente sul carro c'è un aeroplanino di carte, quelli che ci facevamo noi da piccoli elementari. Sì. Tutto intorno disegnato col cielo, con le farfalle, così, e i bambini praticamente, i piccoli dell'asilo, dove c'è mia figlia piccola, sono sul carro, vestiti da coccinella e da ape. E quelli degli elementari, che sono i più grandini, dove c'è la figlia grande, che sono vestiti da farfalle, e i maschi da astronauti. Poi abbiamo Adesso fermo un attimo, perché da astronauti maschietti? Perché non più maschietti? Hanno deciso loro. No, allora sì. No, poi c'è un babbo che è vestito da shuttle, perché anche lo shuttle vola, sì. E un altro che è una bicicletta mia vecchia, una Grezzella, l'abbiamo messo il volante, l'abbiamo trasformato con i tubi di scappamento e dei cerchi a un elicottero che va dietro il carro pedalando. Oh, mi si sta sdoganando questo mondo dei carri che giuro non avevo mai approfondito nella mia vita e che non è niente male. E tu cosa fai? Io niente, io ho fatto il carro, aiutato a fare il carro insieme ad altri 4-5 genitori a costruire l'aereo, perché mi è dovuto fare l'impegnatura, poi con verniciare tutto quanto, quindi a mettere in sicurezza con la gomma piuma, tutto quanto, perché i bambini, perché devono passare un collaudo i carri, se non te lo passano, non te lo fanno andare. No, non farmi venire la crisi del collaudo del nostro carro, perché sennò... adesso devo chiamare subito a Celle Ligure a vedere se è tutto a posto. Cioè, almeno a Ravenna, cioè noi il 27, a Ravenna è così. Noi abbiamo fatto il 27 a Ravenna. Ok. Siamo la domenica 27 abbiamo fatto a Ravenna. Okay. E il 3 a turno ogni anno, c'hanno la qualità marittima, quest'anno siamo a Rio Adriano, l'anno scorso, se ricordo male, era Marina di Ravenna, sì. Cioè ogni anno cambia la località del mare, quindi la prima domenica si fa Ravenna Centro, la seconda domenica a turno una la qualità. Ma senti, costa, anche no, nella tua sfilata c'è, cioè, un concorso, puoi vincere? Sì, sì, si vince, danno un piccolo premio ogni quindi anche tu domenica. Anni fa arrivavamo terzi, no? Secondi terzi, non mi ricordo quando. Sì. Che facevamo la Romagna Vecchia, c'erano tutti i bambini vestiti a tipo contadini anni 60, 70, per ricordare l'origine della nostra terra, ecco. Senti, allora facci sapere se vinci oppure no. Ma speriamo. Speriamo anche per voi, poi spero di vederti qua prima o poi. Intanto siamo gemellati, Yuri. Tieni duro che prima la prossima arriviamo a Ravenna. Va ciao. Bene, ok. Ciao. Cazzo, però a ripensarci è figa la cosa dell'aeroplanino di carta. Oh, ragazzi del carro di Celle, ma noi ce l'abbiamo, cioè, tutto a posto? Le carte tutte in regola? O la facciamo alla vecchia? Ho aggiornamenti sul nostro carro, eh? Mi arrivano dagli inviati speciali. I lavori procedono alacremente. State carichi, Lillo. Grazie. Cosa è stampato su questo bel foglio A4? No, non arrivo a vedere, me lo dica lei. Guardi, glielo passo anche volentieri, perché io leggo una domanda, lei darà tre possibili risposte. Sa di cosa stiamo parlando? Del test attitudinale. Certo, ormai che glielo stiamo a dire ai radioascoltatori. Sono più che abituati. Una domanda veloce quest'oggi, ma attenti perché la risposta potrebbe essere insidiosa. Vi chiediamo cosa possiamo intendere col termine Sittlin Circuit. Ipotesi A. Sitlin Circuit era il nome con cui veniva comunemente indicato quell'insieme di locali sparsi attraverso tutti gli Stati Uniti in cui musicisti, attori ed ogni altro tipo di artisti ed intellettuali più afroamericani erano liberi di esprimersi ed esibirsi nel periodo della segregazione razziale statunitense. Oppure, ipotesi B, Sitlin Circuit è il nome della prima band di Janis Joplin. O infine, ipotesi C, Sitlin Circuit è il nome dell'etichetta che negli anni 60 fu la rivale ufficiale della Motown Records. La Sitlin Circuit era specializzata nella musica rock. Cos'è il Sitlin Circuit? La risposta esatta, come al solito, fra poco. La soluzione giusta a poco dopo.